America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I'm not getting rid of all of healthcare reform. Mitt Romney, avete sentito, il candidato repubblicano, ha cercato di rispondere alla convention democratica in un'intervista ieri a Meet the Press. Ha fatto notizia. Perché? Beh, perché si è spostato leggermente al centro. Ormai siamo nell'ultima fase della corsa elettorale e Mitt Romney, su Sanità, ha detto che in fondo io alcune cose del piano di Obama le posso tenere, sarà un mio piano, non sarà il piano di Obama, però certe garanzie le terrò. È una novità, come è una novità una critica che ha fatto ai repubblicani per aver fatto un compromesso con i democratici sui meccanismi automatici per il taglio al disavanzo nel caso non ci fosse un accordo entro la fine dell'anno. Ecco, un Mitt Romney dunque che si riposiziona, ma che secondo me resta pur sempre debole, devo dire, in questa intervista, come un po' nella sua natura, non ha dato l'unghiata che forse qualcuno si aspettava. My grandparents were given the chance to go to college, buy their own home. Questo è uno stralcio del discorso di Barack Obama, avete sentito, è una, direi, la parte centrale, la parte in cui Obama era un po' sottotono, non era molto aggressivo, un Obama inusuale. Ci sono state delle reazioni piuttosto critiche nella stampa americana a questo discorso. Maureen Dowd, per esempio, ha criticato l'aspetto in cui Barack Obama cercava di coinvolgere il cittadino e diceva: beh, non sono io che ho fatto queste cose, siete voi. E quindi dice: ma come, siamo noi? Siamo noi o è il presidente? Joe Klein su Time dice: beh, non ha chiuso la partita con questo discorso. Altri hanno detto che addirittura si è chiusa un'epoca dal 2004 al 2012. C'è un certo tipo di Obama, a questo punto Obama è cambiato. Ecco, entriamo nell'ultima fase di questa corsa per la Casa Bianca 2012 e ho qui con me in studio ai microfoni di America 24 Paolo Valentino del Corriere della Sera, Christian Rocca del Sole 24 Ore. Siamo stati insieme a seguire queste due convention, sia quella repubblicana che quella democratica. Queste convention sono faticose o no? Perché magari la gente pensa che andiamo lì a divertirci. Faticosissime. Christian. Io mi diverto e vorrei anche altre due convention nei prossimi due mesi. E star su fino alle 3 del mattino a cercare di capire. Non si dorme mai. Ecco, siamo nella fase finale di questa corsa elettorale. A me è colpito molto il fatto che Barack Obama, insomma, in effetti in questo discorso è sembrato un Barack Obama diverso. Non che questo abbia avuto un impatto poi sui sondaggi, perché nel fine settimana abbiamo visto che ci sono state, vi cito alcune media nazionali, intanto sulla media nazionale Obama è al 47,8 contro il 46% di Romney, quindi più 1,8%, ma è più interessante aver visto che sondaggi come quello di Gallup, per esempio, gli danno addirittura 5 punti, quello di Rasmussen 4 punti, Gallup 49-44, Rasmussen 49-45. La prima volta da marzo che si vede veramente un balzo un po' in avanti di Obama. C'è da dire che questo succede dopo le convention, non è successo però per Romney. Ecco, cominciamo da Obama. È cambiato questo presidente con questo discorso, Paolo? L'ho detto lui stesso, un passaggio del discorso molto onesto e interessante in cui lui dice: io non sono più il candidato, sono il presidente, in questi anni sono cambiato. Non c'è dubbio che un Obama che ha voluto presentarsi volutamente sottotono, mostrando le cicatrici del potere, cosciente dei limiti che l'esercizio del potere comporta, e quindi un Obama che non promette più l'abbassamento del livello degli oceani, ma promette una saggia gestione dell'economia nell'obiettivo che si è posto di uscire dalla crisi e di riportare l'America a una crescita sostenuta. Ecco, Christian, non c'è il magic di Obama e la destra dice: insomma, una volta si votava per il magic, adesso senza il magic per cosa votiamo? Per la sedia vuota di Clint Eastwood? Ma devo dire una cosa, questo povero Obama è stato criticato per 3 anni perché era troppo lirico, troppo aulico, faceva poesia e non faceva prosa, e tutti dicevano questa cosa qui che non andava nel concreto. Per una volta che invece ha tenuto i toni un po' più bassi, ha provato appunto a mostrare, come diceva Paolo, le cicatrici del potere, le difficoltà di stare alla Casa Bianca, viene criticato perché non è aulico come un tempo. Viene criticato perché manca una sostanza di fondo, cioè in questi 4 anni le promesse che lui aveva fatto non sono state mantenute. mantenute, quindi diciamo... Beh, insomma, io non lo so se non sono state mantenute, perché per esempio il principale punto di politica interna, la riforma sanitaria, l'ha fatta, e non è la riforma sanitaria di cui si parlava, ma insomma una cosa un po', in realtà è una riforma delle assicurazioni delle assicurazioni e non della sanità, però insomma alcune cose le ha fatte, non sono piaciute a gran parte degli americani, per cui c'è questa reazione. Il discorso dove secondo me è stato debole è stato nel punto dove non ha espresso delle proposte per uscire dalla crisi. Lui sostanzialmente ha detto: ho fatto le cose giuste per uscire dalla crisi, per fermare la crisi, ho bisogno di più tempo. E se poi guardate le proposte di quegli altri, sono le proposte vecchie che ci hanno portato in questa situazione, cosa peraltro non particolarmente vera, però insomma la posizione di Obama è questa, e quindi vi dovete dare tempo perché io devo concludere il percorso. Ecco, però viene attaccato, gli si dice: beh, più tempo per che cosa? Per continuare a fare più statalismo e meno mercato, per fare politiche che tutto sommato non hanno dato successo. Ecco, il dibattito è aperto, siamo nella fase finale di questa corsa elettorale. Paolo, secondo te a questo punto che cosa succederà? Quali sono i punti centrali che dobbiamo tenere presente per capire come vanno a finire queste elezioni? Se mi consente un solo passaggio sullo statalismo, c'è un momento del discorso di Barack Obama, secondo me interessante, in cui lui dice: il governo non è la soluzione di tutti i nostri problemi, e chi pensa, soprattutto quelli che portano avanti la verità di Roosevelt, che ogni problema possa essere risolto con un nuovo programma statale, si sbaglia. Per quanto riguarda l'evoluzione della campagna elettorale, credo che a questo punto lo snodo cruciale siano i dibattiti. Nel senso che la campagna elettorale ha acquisito una dinamica sicuramente favorevole a Obama in questa fase, e quindi lo snodo principale e il momento in cui Romney può rovesciare le carte saranno i dibattiti. Quindi secondo me il vero appuntamento è il 3 ottobre, primo dibattito a Denver, dove probabilmente Romney si gioca la carta più importante per poter rovesciare questa dinamica che sembra ormai innescata nella campagna. Ecco, Christian, 4 anni fa McCain si trovava tutto sommato in vantaggio, aveva avuto un buon rimbalzo nei sondaggi, poi ha perso. Che consiglio daresti a Romney? Cosa deve fare Romney per cercare di recuperare da qui ai dibattiti del 3 ottobre? Romney non può far altro che investire nelle contee, negli stati dove la partita si gioca, perché poi questi sondaggi nazionali di cui abbiamo parlato vogliono dire poco, perché poi bisogna andare a vedere in questi 7, 8, 10 stati dove si deciderà la partita qual è la situazione, e anche lì il vantaggio è per Obama. Diciamo, sui voti elettorali Obama si trova in vantaggio. Parliamo dei voti elettorali, che sono la cosa importante, sono 270. Sì, si trova in vantaggio perché parte da una base più grossa, cioè gli stati che tradizionalmente votano democratico, dove la partita non c'è neanche, non è contestata, non si fa neanche campagna elettorale. La partita si gioca in Florida, in Ohio, in Virginia, in North Carolina, in Iowa, in Colorado, in Nevada, in New Mexico, adesso anche in Wisconsin. Sono questi gli stati. Allora, Romney praticamente per diventare presidente degli Stati Uniti deve vincere in quasi tutti, perché parte da una base inferiore. A Obama gli basta vincere in Florida, gli basta vincere in Ohio, gli basta vincere in due stati un po' più... Beh, in due o tre, diciamo, sì. Paolo, vincerà Obama queste elezioni? Beh, ha ragione Christian, nel senso, Obama parte da una base di 221 voti elettorali, quindi gliene mancano meno di 50 per arrivare alla soglia magica. E c'ha 9-10 stati in cui è vero che la partita è aperta, ma lui è in vantaggio. E cioè è solo Obama che può perdere questa partita. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, Tempest di Bob Dylan. Domani esce il suo nuovo album, il 35esimo album, e dunque di Bob Dylan direi in sintonia con un'altra tempesta, quella politica, quella elettorale, Tempest. The pale moon rose in its glory out of the western town. She told a sad, sad story of the great ship that went down. 'Twas the 14th day of April over the way she rolled, sailing into tomorrow to a golden age foretold. The night was bright with starlight, the seas were sharp and clear, moving moving through the shadows. The promised hour was near. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluto e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!